serve soffrire per un amor che fa dannare. Voglio godere la vita finché potrò, senza pensare. Io spezzo le catene dell'amore e dimmi pure che non ho cuore. Son libero e mi piace di sognare. Voglio cantare e starmene a guardare. Ah, cosa serve soffrire per ogni bacio che tu mi dai? Tutto col tempo guarisce ed anche tu mi scorderai. L'amore che il dolore porta con sé non è per me, non è per me. Se 100 bocche ancora tacerò, non soffrirò perché non amerò. Che tu mi dai, tutto col tempo guarisce ed anche tu mi scorderai. L'amore che il dolore porta con sé non è per me, non è per me. Se 100 bocche ancora bacerò, non soffrirò perché non amerò. Con sé non è per me, non è per me. Se 100 bocche ancora bacerò, non soffrirò.